Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti. Vorrei iniziare questa trasmissione con un minuto di silenzio, ma non posso farlo naturalmente. Però un pensiero commosso e partecipato va al professor Alessandro Chiappini, che non è oggi qui con noi, perché si è tranciato una mano con il frullino mentre costruiva una culla in legno per il suo figlioletto. Il professor Alessandro Chiappini, oltre a essere un esperto in B-movie e nostro spacciatore di spezzoni cinematografici per le trasmissioni con Giuseppe Sansonna, è naturalmente un appassionato di bricolage domestico e quindi non vede l'ora di lasciare la console di Radio 24 per dedicarsi alla sua passione. Ha una casa piena di accessori per il Black & Decker, seghe circolari, trapani, lime, attrezzi contundenti con i quali costruisce fantastiche e immaginifiche ornamenti per la propria casa, per la propria famiglia. Ieri o l'altro ieri, non so bene, la notizia è arrivata con ritardo dato il riservo che ha voluto mantenere la famiglia. Ci è arrivata la notizia che un frullino, mentre lui tagliava la tavola di compensato, ha incontrato le sue dita, che non sono state completamente tranciate, ma sono state orrendamente maciullate. Egli gira con una ingessatura alla mano sinistra, per sua fortuna, quindi potrà continuare ogni sua attività, con il dito indice proteso, come se fosse il saluto preferito dall'onorevole Bossi. Beh, proprio in suo onore e con l'auguro che possa presto guarire, questa mattina dedichiamo la trasmissione agli incidenti domestici. Gli incidenti domestici sono un'aiattura, ma allo stesso tempo un monito celeste nei confronti di chi vuol fare quello che non è adatto a fare, per fisico, per età, per predisposizione, per attitudine, per determinazione genetica, per missione spirituale. Quante persone si fanno male dentro casa? Non è una cosa allegra, molti si fanno male seriamente, molti ci lasciano anche la pelle. La casa molte volte diventa una terrificante camera degli orrori, se non vengono fatti gli impianti a norma, se non c'è la giusta manutenzione, o se si usa in maniera distratta o non particolarmente corroborata da esperienza e da capacità alcuni elettrodomestici, alcuni strumenti. Ma nella casa ci si fa anche male in tante altre maniere. Si prendono, io ho una scrivania che ha una sedia non adeguata per misure e per altezza, ogni volta che mi alzo mi fratturo un ginocchio battendo nel cassetto. Vorrei cambiare o la sedia o la scrivania, non ho tempo di farlo, non ci penso, dico ci penserò, mi ricorderò. Frattanto ho un grosso livido all'altezza del ginocchio sinistro, perché quel cassetto batte sempre nello stesso posto quando mi alzo velocemente. Altre persone si bruciano con il forno, si bruciano con il fornello, si fanno male tagliandosi perché si rompono i vetri e non li puliscono bene per terra. Insomma, vorrei capire questa mattina qual è la miriade degli attentati alla nostra sicurezza, alla nostra tranquillità, alla nostra integrità che ci presenta la casa. Questa è la giornata dedicata all'incidente domestico. La casa è il luogo più pericoloso per gli italiani, con un totale di circa 4 milioni di incidenti all'anno, dei quali oltre 7 con esito mortale. Se si confronta questa cifra con il milione registrato sui luoghi di lavoro e i 220.000 incidenti stradali, la situazione appare ancora più inquietante. Le cause possono essere le più svariate: distrazione, superficialità, inosservanza delle norme di sicurezza, presenza di apparecchi pericolosi o di sostanze chimiche nocive. Cadute, tagli e ustioni sono gli incidenti più frequenti. Il luogo all'interno dell'abitazione dove avvengono la maggior parte dei traumi e degli avvelenamenti è la cucina, seguita dal salone, dalla camera da letto e dal giardino. La causa più frequente è il trauma da caduta e da schiacciamento, seguito da ferite e da lesioni provocate da animali o cose. 800 24 00 24. Ecco, questa è anche una risposta a quelli che dicono: ah, me ne voglio stare tranquillo dentro casa. Ma dove vai, dove esci la sera che è pericoloso con quello che gira per strada? Statevene tranquilli dentro casa. Non fate rumore, non fate casino. Chiudiamo presto le birrerie. La brava gente deve stare dentro casa, deve stare tranquilla. Ma la casa in realtà è il luogo tra i più pericolosi per la nostra tranquillità. 800240024. Vorrei una rassegna degli incidenti domestici che probabilmente non rientrano nelle statistiche che sono state fatte da chi ha compilato, ci ha aiutato a compilare questa scheda. A cosa è accaduto a voi nella vostra casa? Quali sono i segreti nascosti che trasformano una tranquilla, ridente e piacevole abitazione di una media famiglia italiana, una sorta di casa degli orrori, e quelle case in cui bisogna girare con la motosega sempre in mano perché da ogni pertugio potrebbe uscire un mostro per attentare alla nostra tranquillità? Gli incidenti domestici sono, sembra, quasi ne parlano poco, ma purtroppo succede anche questo, negli incidenti domestici, perché ormai la cucina è talmente tanto elettricizzata, ormai abbiamo lavapiatti, abbiamo cucine automatiche, abbiamo impastatrici, abbiamo tante cose, che purtroppo bisogna stare molto attenti anche su questo. Io direi a tutte le massaie di avere sempre un occhio di riguardo, non dare troppo confidenza sia dal ferro da stiro elettrico, fra questo, perché ormai la casa è oberata da tutte queste macchine elettroniche che delle volte anche la massaia stessa non sa come fare. Questi erano i consigli di Giovanni Rana, che naturalmente non mi si accusi di malizia, meno una persona cucina più usa i suoi prodotti, quindi meglio è per lui. Però dà dei consigli di saggezza di stare attenti a tutte le diavolerie tecnologiche. Ancora una volta la tecnologia diventa il primo grande imputato. Attenzione al ferro da stiro, ci si potrebbe scottare. Vabbè, allora non stirate i panni, mettetevi le camicie stazzonate, almeno non rischiate. Non lavate nemmeno i panni, portateveli zozzi addosso, almeno non rischiate. Non cucinate, mangiate soltanto panini e cibi precotti, così almeno starete ancora più tranquilli. Ma in realtà la casa ci richiede ogni giorno un'infinità di contatti pericolosi. La casa è non soltanto la casa va estesa ai luoghi di abitazione, ai luoghi in cui si cucina, si dorme, ci si incontra, ma anche a dei terribili pertugi che vengono chiamati, a seconda della latitudine, tavernetta, laboratorio, sgabuzzino, garage attrezzato. Questi sono i luoghi più pericolosi. Nel garage, quando poi normalmente ci sta sempre fissa la solita panda coperta con il telo impermeabile, lucidissima, pulitissima, e in fondo ci sono, non so, le lattine dell'olio, perché l'olio va comprato dal contadino, quello buono, ci sono i barattoli della conserva, ci sono i vecchi mobili schifosi messi lì da parte, c'è l'attrezzatura degli strumenti e degli arnesi. Sono sempre strumenti con i fili rabberciati, legati con lo scotch, con ciabatte, prese, sempre c'è già una centrale elettrica pronta alla fulminazione della persona che può usarli, e naturalmente c'è a contatto con questi attrezzi qualcuno che va oltre i limiti delle proprie capacità. Eccoci, Cinzia, prima ascoltatrice. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Un incidente domestico molto singolare il suo. Molto singolare, sì. Stavo sbrinando il frigorifero, il congelatore. Sì. E inavvertitamente è scappato un cubetto di ghiaccio. Ci ho messo il piede sopra, sono scivolata e sono stata 40 giorni gessata. Per un cubetto di ghiaccio? Per un cubetto di ghiaccio. E ora, quando ripete questa indispensabile operazione, che tipo di attenzione fa? Metto tappeti e stracci per tutta la cucina, riempio tutta la cucina di tappeti e stracci in modo tale che non possa scivolare, non possa, anche se c'è un cubetto di ghiaccio che è scappato, io non possa prenderlo sotto i piedi. Seguite l'esempio di Cinzia, grazie Cinzia. 800240024 già ci ha segnalato un incidente domestico che non rientrava nelle statistiche, il cubetto di ghiaccio assassino. Valentino, buongiorno. Buongiorno. I suoi incidenti domestici. Il mio incidente domestico più frequente è stato uscendo dalla doccia, sì, o comunque dopo la doccia, scivolare sul bagno e farmi un male terribile. Diciamo il piatto viscido della doccia. Il piatto che della insieme... doccia oppure l'acqua che ho tirato in giro. Ah, l'acqua che ha tirato. Ma non mettere un tappetino non potrebbe aiutarla a salvarsi la vita? Sì, sì, no, ma lo metto. Però tante volte nella fretta uno... nel fare in fretta a fare le cose, scivola velocemente anche sul tappetino. Beh, lì si rischia la rottura della spina dorsale, perché poi c'è un bordino a volte anche molto tagliente a seconda di come è stata confezionata. Eh sì, questo le è accaduto più volte. Molte volte, sì. Grazie Alessandro, grazie Valentino. Alessandro. Eccomi. Lei, diciamo che conferma la statistica, qual è il suo incidente domestico più frequente? Nel bagno, montando la cabina doccia, praticamente avevo messo la sedia sopra la cabina, sopra il piatto doccia, però in un punto insidioso, perché era dove c'era il tappo di scarico. Uh-huh. Il tappo di scarico acceduto sotto la zampa della sedia. Sotto la zampa della sedia ho fatto una super caduta, però... Ha fracassato anche, diciamo, la protezione che stava montando, sicuramente. No, fortunatamente mi sono rotto soltanto tre costole, per sì, dire, andata bene. Però la testimonianza che volevo portare in aggiunta è che il giorno prima un collega ha detto a te oggi non ti vedo tanto bene, quindi a volte in questi incidenti non è mai che c'è una componente umana, diciamo, molte volte qualcuno ci pensa. Ma lo sai, lei adesso ha aperto un file che avevo qualche titubanza ad aprire, dunque... È un po' di tempo che a casa mia scoppiano i tubi dell'acqua, le tubature dell'acqua, perdono i rubinetti, ho allagamenti continui, perché che si alzano. Una nostra collaboratrice domestica di origine paraguayana ci consiglia vivamente di chiamare un prete e far benedire casa, perché dice qualcuno vi vuole male. Quindi c'è da considerare anche questa, se vogliamo superstiziosa, se vogliamo che affonda in retaggi oscuri, credenza che l'incidente domestico è provocato dall'invidia, dal malessere che ci provoca l'attenzione malevola di altre persone. Rosina. Buongiorno. Niente, una mia testimonianza. Ero sposetta. E sposetta cosa significa? Ma appena sposata, più sì. Giovane, è certo. Ancora nell'euforia del sì. Congiungimento precoce. Sì, sì, di tenere il nido il più pulito possibile, il più lucido possibile, tutto quanto il più possibile. Tutto più lucido che possibile. Io stavo passando la lucidatrice addirittura al bagno. Pensi quanto ero... Lei passava la lucidatrice sulle piastrelle del bagno, perché tutto sì. Fosse lucido tutto nella lucido sua meravigliosa luna che... di miele. Fino a che fino mi a venne che... lo sguardo che poteva esserci una goccia d'acqua. Accanto così. Dove? Sotto il tubo, sotto sempre il tubo. Nel bagno, praticamente mi sono procurato un elettroshock, perché tenendo con una mano la lucidatrice e l'altra toccando il tubo del bagno... Si è visto lo scheletro? Sì, sono rimasta più di 20 minuti, forse anche di più. Il suo povero marito l'ha trovata per terra in fin di vita elettrificata? No, è rimasto nel segreto della mia vita, perché se no ce l'avrei anche avuto anche altri, come si dice... altre bacchettate per quello che avevo fatto. Perché però gli dava anche la giunta, cosa. Come si diceva, la picchiava pure, naturalmente. No, povera, a una distanza, no. A una settimana dal fatidico sì. Sicuro, moralmente quindi sicuro. Quindi oggi ha rivelato un segreto della sua vita coniugale che suo marito non conosceva. Ma vuole sapere una cosa che è andata oltre? Sì. Ho cominciato a prendere le cose un po' più con calma, sì. Prendere una penna in mano, ho sì. Cominciato a scrivere, sì. E le posso dire che forse sono diventata un poeta dopo l'elettroshock. Ah beh, vede. Anche questo, c'è gente che cammina per strada, arriva un fulmine, lo colpisce un fulmine, improvvisamente parla tutte le lingue del mondo. Altre persone si fulminano con la lucidatrice e diventano poeti. Maria Elvira. Sì. Mai avute tante telefonate così a raffica. Maria Elvira, cosa le è accaduto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, anch'io ero sposina. E ma pulivo... perché usate questi termini antichi, sposina? Che vuol dire sposina? Ma poi una diventa sposona. Adesso è una sposona. Insomma. Sì, cioè, come si evolve la sposina? È sposona, sposaccia, sposetta? No, si evolve in un rapporto di coppia normale. E normale quante volte sarebbe a settimana? Non in quel senso. Rapporto non lo so. Di coppia, di vicinanza. Di Vabbè, ho capito. Di, come fratello e sorella. Qual è l'incidente domestico? Allora, pulivo doviziosamente la cucina. Certo. E con lo straccio imbevuto di alcol. Alco denaturato, così resta quel buon odorino esatto, di corsia esatto, di ospedale che fa tanto bene all'appetito. Esatto. Mm. E ho pulito una lampadina accesa. Che la esplosa naturalmente. Sì, che esplosa naturalmente. Io ero in piedi sulla pattumiera per arrivarci bene. Sono caduta ottima dalla pattumiera, però miracolosamente non mi sono fatta niente. Comunque mi è servito di lezione, perché da allora l'alco denaturato in cucina non lo uso più. Sarebbe anche consigliabile non salire in piedi in bilico sulle pattumiere e soprattutto avvolgere con l'alcol denaturato, che è infiammabile, una lampadina incandescente. Però se uno trascura queste trascurabili appunto fattispecie, può comunque continuare a lavorare tranquillamente in cucina. Emanuele. Buongiorno, da Roma, sì. Che le è successo? Allora, di tutto e di più. Particolare riguardo le questa è una vera trasmissione di servizio, noi diamo indicazioni perché ciò non accada più o perché ciò accada in maniera mirata, almeno contro le persone che vogliamo incidentare. Allora, il must del must, perché l'abbiamo fatto, penso, 4, 5 volte, 7 volte, ho perso il conto, i succhiotti dei bambini messi a sterilizzare dentro l'acqua e lasciati a consumare finché una nube tossica riempiva tutta la casa. No, questo non l'ho capito, scusi, lei mette succhiotti... Ah, nell'acqua bollente, che bolle! Eh certo, nell'acqua bollente. Ah, è vero, sì, mi ricordo. Poi succede qualcosa, per cui uno si distrae... Ah, si fonde, diventa una colata di gomma fusa, è bellissimo. E finché quello di gomma va bene, quando poi c'era quello di gomma con quella plastica... Di lattice, antiallergico. No, che era, no, era plastica e caucciù. Ah, plastica e caucciù. Lascia immaginare la plastica che cosa poteva... Ah sì, viene un bel bruciaticcio nero di plastica. Quando finisce tutta l'acqua che si evapora, sì, comincia a bruciare la plastica e c'è un bel crogiolo di plastica. Mamma puzzolentissima mia, una cosa pazzesca dentro casa. Ovviamente sì, è una nube tossica praticamente. Lei produce nelle ore più impensate, tipo la sera, quando d'inverno faceva freddo e bisognava aprire poi tutte le finestre. Si passava la notte, sì, a ripulire la cucina. Questo accade spesso, questo è vero, sì. Poi? L'altra cosa, il bambino piccolo che si arrampica sopra il letto a castello tutti i giorni prova a scendere, messa la barriera tipo l'IKEA per non fargli salire le scale, lui supera tranquillamente anche comunque la barriera. Io avevo messo uno scivolo, vendendo degli scivoli che dalla parte sopra si può scendere con uno scivolo. Sì, ci manca solo lo scivolo. Sì, ma avevo la casa piccola e andava a battere contro la parete, quello era il problema. Ecco, appunto, e sarebbe lo stesso, a me finirebbe direttamente fuori dalla finestra, al terzo piano. Poi è uno smaltimento dei bambini tossici che può anche servire. Un'altra cosa, mia moglie mise, non so perché, in un delirio di pulizia pure lei, la bottiglia dell'acqua, quella che uno riempie tutti i giorni, a pulire con il Diacal. Certo. La lasciò dentro il lavandino, lei non c'era, io ho apparecchiato. E se l'è bevuta. E ce la siamo bevuta tutti. La sera ci siamo accorti che lei mi ha detto questa cosa. Io ho detto, che cosa hai fatto? Beh, si è tolto il calcare dalle budella, tutto sommato è utile. Sì. Sì, io penso che sia veleno, cioè se questa cosa fosse vera lei sarebbe morto, quindi o perlomeno avrebbe delle lesioni irrimediabili. No, in realtà il Diacal poi, no, sono incuriosito, sono andato a vedere, ha un tempo di evaporazione abbastanza veloce in realtà, quindi se erano passate diverse ore... No, perché serve a scrostare i cessi, figuriamoci se uno se lo beve, non lo so, dico, ma è terrificante il Diacal, è un acido, eh? È però diluito e dopo diverse ore è un alcalo, veramente non è un acido. È un alcalo, ah beh, sì. Non lo sapevo. Sì, scusi, la mia esperienza in via Calle non va oltre. So che scotta, se uno lo mette nel bagno fuma, no, però comunque va bene. O forse confondo con un altro acido. Forse confondo con l'acido cloridrico che si butta con dentro. La varichina, ecco, sì. Lo so. Se li mischi insieme fanno una bella nube, però, eh. Ah, fumano, nube tossica. Se li fuma insieme fanno una bella nube. Un ottimo consiglio. Un ottimo consiglio. Benissimo, grazie. Carlo? Schiacciato dal letto contenitore. Sì. Come è accaduto? Sì. Sostanzialmente mi sono regalato questo bellissimo letto contenitore di cui non farò assolutamente pubblicità. Sì, quelli che si alzano, no? Esatto. Che ci smettono i cuscini, le coperte, gli amanti, quello che uno vuole. Poche ore dopo che mi era stato consegnato nel mettere dentro coperte e quant'altro, perché finalmente guadagnavo un po' di spazio. È fatto con dei pistoni a gas che evidentemente non si sa perché e non si sa come. Non erano ben carichi, forse? Forse no. E mi hanno schiacciato. Ma il dolore, perché comunque ho sopportato il peso del materasso. E quanto tempo è stato chiuso dentro il cassettone del letto? 4 ore, finché non mi hanno liberato. Perché logicamente... E com'è? Sua moglie sentiva mugulare sotto il letto e non capiva dove venisse? No, la moglie non c'era a casa, la moglie non c'era. Infatti mi è venuta a liberare tipo 4 ore dopo che è rientrata dal lavoro. E lei era più morto che vivo? Io ero esamine, praticamente. Senta, ha mantenuto questo letto trappola oppure ha cambiato? Io ho fatto causa 2000 giorni fa. E com'è andata a finire? È finita che sto ancora aspettando. Va bene, comunque ha detto anche una cosa che in realtà aiuta. Attenzione anche ai letti a ribalta, perché... Non entrateci dentro. Sì, non entrateci dentro, a meno che non siano dei giochi che servono a mantenere vivo l'interesse di coppia. Evitate di farlo. E poi un'altra cosa rapidamente. Non sperimentate detersivi nuovi, nel senso che... Io ogni tanto vengo anch'io preso, come diceva il radioascoltatore precedente, da raptus di pulizia e magari faccio degli allegri cocktail di detersivi L'ultimo che ho fatto, ma poi ho smesso perché me lo sono proprio imposto, praticamente è venuta fuori una roba gialla che fumava, ma penso che era piuttosto dannosa in termini di inalazione. Sì, ci sono, diciamo, quindi... sì, anche la nube tossica che sprigiona dall'infinità dei prodotti chimici fantasiosi, esatto, e variegati che troviamo negli scaffali dei supermercati può o rendere piacevole una serata noiosa o allo stesso tempo sterminare una famiglia. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il 40% delle casalinghe viene colpito da incidenti domestici. Gli elementi che possono diventare pericolosi sono fuoco, elettricità, acqua e gas. Per ridurre il rischio di folgorazione è indispensabile installare nel proprio impianto il salvavita e la messa a terra per disperdere la tensione elettrica. Rivolgersi ad un tecnico per ogni manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico, pretendendo la consegna della dichiarazione di conformità e gli allegati. Non usare mai gli elettrodomestici quando si è bagnati o a piedi nudi. Il gas può causare intossicazioni ed esplosioni. Si possono verificare fughe di gas metano, molto infiammabile ma riconoscibile. Se avessi parlato questa mattina delle insidie dei quartieri periferici, se avessi parlato questa mattina del problema della sicurezza nelle nostre strade, se avessi parlato questa mattina delle rapine, degli omicidi, degli assassini, delle aggressioni, delle violenze, non avrei toccato tanto dolore e tanta sofferenza quanto parlando di incidenti domestici. 800 24 00 24. Stiamo relativizzando il concetto che stai a casa, stai tranquillo, è la raccomandazione più utile che fanno genitori ben pensanti, parroci e tutori ai propri figli, ma scappa da casa perché la casa è un vero luogo di terrificanti rischi. Paolo da Faenza, buongiorno. Buongiorno caro Nicoletti. Cosa le è successo? La mia storia è breve e recente, tipo 4 giorni fa. Io stavo lavorando a un modellino, mi piace costruire modellini di navi o di aerei. Stavo costruendo un modellino della famosa corazzata Roma e usavo un mini trapano da hobbistica su cui avevo. Era la famosa corazzata Potionchi, no? Quale sta facendo? No, no, dato... molto, molto più recente della Potionchi. Ah. La Potionchi non mi avrebbe fatto questo danno, sicuramente. Quindi lei stava con il suo attrezzo da bricolage a tagliare la balsa per fare la corazzata? Sì, esattamente, non era balsa, ma comunque. Beh, sì. Il concetto è quello. Sì. Stavo lavorando con questo mini trapano poco più grande di quello che usano i dentisti, su cui avevo montato una sega circolare, una piccola sega circolare, che va a un numero di giri piuttosto elevato. A un certo punto, niente, il supporto su cui il pezzo a cui stavo lavorando era basato si è mosso per qualche motivo, sicuramente per mia stupidità l'avevo fissato male. Il trapano mosso dalla velocità tangenziale della sega è saltato per aria e invece di segare la poppa della Roma ha segato il mio polso destro. Cioè l'ha svenato, gli ha tagliato le vene? Grazie a Dio le vene no e neanche i tendini. No, le vene sì, certo. È sprizzato una fontana di sangue, di ottima qualità peraltro. Sì, assolutamente. E io tenendomi con la mano sinistra il polso per cercare di evitare di morire dissanguato, mi sono fatto portare molto rapidamente dal nostro custode al pronto soccorso dove mi hanno dato 10 punti. Guarda, sembra una scena tratta dal film La Casa, quando il protagonista appunto gli viene mozzata una mano e poi la sostituisce naturalmente con un fucile a canne mozze con il quale combatte le streghe, nell'altra mano tiene la motosega. Quindi ha vissuto un film dell'orrore nel suo incidente domestico. Non lo conosco, ma correrò subito. No, le assicuro, si sprizzava sangue a fontana, gli veniva tagliata appunto questa mano, lui la sostituisce con un fucile a canne mozze che sparava, qualcosa del genere, adesso non ricordo bene. Un classico dei film dell'orrore. Grazie Paolo, lei mi ha dato il fianco per introdurre l'argomento chiave di questa trasmissione, che sono gli incidenti domestici che colpiscono la categoria più svantaggiata sicuramente, ma più esposta a rischio, degli umarell. Danilo Masomasotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Masomasotti si è preparato per noi questa mattina, è l'autore bolognese della saga degli umarell, una serie di libri che descrivono questa fascia importante dell'umanità, che sono gli umarelli, pensionati che stanno per strada a guardare i cantieri, fanno un'infinità di altre attività, che sono molto esposti, Danilo, mi sembra, all'incidente domestico. Perché? Sì, cioè, sono molto esposti perché comunque al loro fianco hanno, come è già stato evidenziato dalle telefonate precedenti, hanno queste sposine che diventano sposette, sposone, poi si trasformano successivamente in demone coi bigodini e vedove. Le sdaue sarebbero in bolognese. Le sdaure, esatto, sarebbe l'evoluzione, perché queste... Che sono di una crudeltà e di una raffinatezza nell'infliggere trappole mortali nelle loro case agli umarel che li accompagnano. Esatto, perché che cosa fanno queste sdaure? Queste sdaure costringono i propri compagni a fare delle cose spropositate. Per risparmiare e non chiamare un tecnico. Esatto, e quindi gli umarel che sopravvalutano le loro forze e hanno comunque una mentalità, diciamo, macista, accondiscendono ai voleri delle proprie mogli e si inerpicano, tipo, non so, su delle scale. Io vedo nel tuo sito umarels.it delle foto terrificanti, pensionati in bilico sulle tegole di un tetto, signore che salgono sul parapetto del balconcino interno per pulire le serrande. Quella è la sdaura spider. Infatti, ad esempio, tipo un'operazione tipica dell'umarel è la riparazione delle tapparelle. Ecco, questo ad esempio, questa è una cosa. Senza smontarle, ma facendolo direttamente salendo sul davanzale della finestra. Sul balcone, sia all'interno e spesso all'esterno. Perché lui non è capace a fare il lavoro fatto bene, si arrangia, sceglie la strada più difficile. Ovviamente, rifacimenti totali di impianti elettrici. Rifacimenti di bagni e poi altro danno molto tipico dell'UR è il taglio da affettatrice, perché l'affettatrice è strumento in casa di ogni umarel finalizzata al risparmio, quindi si compra direttamente il prosciutto dal supermercato e lo si affetta. Ah, ecco, per risparmiare invece di comprarlo volta per volta, etto dopo etto, si compra il prosciuttone in liquidazione, che non sempre prosciutto di solito... freschissimi, fatti male, dozzinali, con la plastica dentro per tenerli insieme, cose del genere, e si affetta in casa con l'affettatrice. Sì. Però... E poi, altro incidente domestico tipico dell'umarel, è la scivolata sulle pattine, che sono ancora utilizzate comunque dagli umarel, perché appunto le sposine, sposette, demoni, hanno questo delirio di pulizia, come è stato detto anche prima, e quindi cioè, vogliono la casa pulita e l'umarella deve stare a... Poi hanno ancora pavimenti in marmo, marmetta, quelle cose lì, ancora non, diciamo, i nuovi parquet multistrato non sono arrivati nelle case degli umarella, anche perché il legno poi è pericoloso, richiede manutenzione, non piace alla sdaro al legno, non si può affaticare nel lucidarlo ogni giorno. L'ultima, diciamo che è quella finale, sono i giochi con i nipoti. Di solito gli umarel vengono affidati ai nipoti e con conseguenze tragiche di solito. Quindi sono stato contento comunque che la tua ricerca, che affonda in anni di osservazione antropologica del fenomeno umarel, ha avuto una conferma nelle prime telefonate. Noi abbiamo tracciato un quadro realistico, concreto e secondo me statisticamente efficace di quello che accade nelle case italiane. Vanno a confliggere due elementi. Da una parte la smania maniacale della pulizia da parte delle donne, per questa casa asettica, pulita, specchiata, in cui i pavimenti siano la metafora della rettitudine interiore degli abitanti quella casa, d'altra parte il senso di micragnoso desiderio di risparmiare da parte dei maschi che si improvvisano i lavori di cui sono totalmente incapaci. E poi, ultima cosa, questo è un periodo ad alto tasso di incidente domestico, perché è il periodo del cambio di stagione degli armadi. Ah, pericolosissimo. Quindi attenzione, attenzione. Ecco. Lì c'è anche la naftalina che entra in gioco, gli antitarma, che sono... Ci sono due elementi, c'è l'elemento traumatico, il rischio di fratture per salire sulle scale, l'elemento biochimico, i materiali che vengono dati per disinfettare questi abiti, che poi vengono sempre rigorosamente lavati in casa, ma mandati in tintoria, quindi si moltiplicano le occasioni di incidente. Grazie Danilo, Paolo da Livorno. Sì, buongiorno, a me mi è successo... 3 estati fa, una grande estate calda, di accendere la pala in camera per refrigerare un po', metterla... Dove la teneva? Sopra il letto, quella pala tipo elicottero, ecco? Sì, quell'elicottero che alla velocità massima... Ma aveva il telecomando, quelle telecomandate o quelle, diciamo, a velocità unica? No, quella a 6 velocità. A 6 col telecomando? Sì, a 6 velocità diventa come l'elica di un elicottero. Io mi stavo spogliando, ho alzato il braccio e me l'ha tranciato di netto. Cioè gliel'ha staccato proprio? Sì. A che altezza? Ah, sopra il polso. Ah, quindi la mano soltanto praticamente è andata sì, via? Sì, sì. Proprio tagliata come fosse con un colpo d'ascia? Sì. Ma quanto l'aveva messa bassa questa paletta? Di solito si mette alta, perché sennò... Invece quella era un po' più bassa. È un po' parecchio più bassa, perché scusi, con la mano alzata lei arriverà, che ne so, 2,10 metri, diciamo tanto, è bassa. Sì, era un po' bassa. Ma c'è scritto nelle istruzioni, non installare mai al di sotto di una certa altezza. Però faceva un bel fresco. Ho capito, ma senza la mano è peggio però. Sì, però me l'hanno riattaccata. Ah, gliel'hanno riattaccata, allora è andato a finire bene alla fine. No, il peggio è stato che avevo imbiancato da poco i muri. E l'ha schizzati di sangue. Sangue ho dovuto rimbiancare con la mano sinistra. Sì, perché ha schizzato un sacco, immagino, un polso, esce tanto sangue. Sì. Vabbè, proprio un film dell'orrore. E adesso lei come combatte il caldo dopo questa illuminante esperienza? Ho alzato un po' la pala. Ah, però la tiene sempre in casa? Sì, sì. Ma un condizionatore no, perché almeno quelli non ci si fa male. Perché? No, sono contrario. È contrario, si fanno male, vero? Va bene, invece la pala al massimo ti taglia una mano. Grazie, Cledis. Buongiorno. Cosa le è successo? No, sicuramente non così grave come quest'ultima. Allora aspetti Cledis, ferma un attimo, lasciamo suspense. Mi dicono di lasciare la linea per il traffico. Dalla voce affranta sento che qualcosa di terribile. Vediamo se riuscirà a superare il tranciamento del polso con pala ventilatore del nostro ascoltatore. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ella vede i bagagli. 800 24 00 24, voi vittime delle case assassine continuate a raccontare, e questa sarà la vostra vendetta, quanto su di voi ha infierito la tecnologia malvagia, la invidia dei vicini, probabilmente anche in parte piccolissima, però la vostra imperizia, come l'ascoltatore di poco fa che è stato costretto a rimbiancare le mura di casa che aveva appena tinteggiato per gli schizzi di sangue dalla mano mozzata dalla pala ventilatore. Ci siamo interrotti con Cledis che preannunciava un importante e interessante incidente domestico. Cledis. No, sicuramente non tragico come questo ultimo ascoltatore. Niente, proprio ieri io lavoro in casa di famiglia, no? Sì. Come una stupida, perché mi ritengo anche un po' stupida. No, no, cioè non dica così, può capitare una disattenzione a chiunque, su. Sì, no, siccome c'è un problema di cattivo odore in bagno... Sì, perché fanno la pipì fuori della tazza probabilmente. No, ma proprio una cosa spaventosa, nel senso che appena finito di pulire i bagni c'è questo odore orrendo, no? Riviene fuori subito. Esatto, allora da me cosa ho fatto? Ho messo l'acido muriatico, più di mezza bottiglia, certo. L'ho lasciato un po' e poi dopo ho aggiunto anche la candeggina. Ha fatto l'orrendo mix, ha cominciato a fumare tutto, immagino. Guarda, un casino, io ho cominciato a respirare quella cosa lì. No, si attenta, se la respira sviene, cade per terra, rimane orrendamente ustionata e troveranno un misero cadavere e anche sfregiato. No, io subito ho aperto porte, finestre, tutto quanto, mi è venuto mal di testa orrendo e ho cominciato a vomitare. Quindi i bagni, oltre la puzza di pipì, c'era anche il vomito per terra. Guarda, veramente. E poi tutti i marmo, sa che il vomito è acido. E poi ho fatto proprio un casino. E il vomito con cosa l'ha pulito? Ho pulito con acqua e alcol. Di solito. Così ha stratificato, diciamo, elementi nocivi. Alla fine ha mantenuto il posto di lavoro o l'hanno licenziata? No. Ho tenuto, anche perché ho pensato di aver fatto una cosa per il bene. Ho fatto un casino, però la signora... Va bene, si conservi la salute e Cledis continui a essere così brava, domestica, in casa. Gianluca. Nicoletti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo raccontare una mia avventura che è successa circa 2 anni fa, quando è nata la mia bimba. Sì. E nessuno sapeva cambiare, cioè non è che nessuno sapeva cambiare il pannolino. Torna a casa mia figlia, mia moglie mi dice: ah, adesso chiamo mamma per cambiare il pannolino. Ho detto: no, lo cambio io. Ho cambiato la bimba e la mamma è intervenuta, giustamente mia suocera, ha detto: no, guarda, spegni la luce del bagno, perché il bambino se la guarda fissa poi gli vengono gli occhi storti. Ho detto: 30 secondi. Si gira questa diceria dai tempi degli antichi romani, sì. Allora ho detto: ma 30 secondi ci vuole a pulire il culetto, a posto, l'ho pulito e l'ho portato. Beh, 30 secondi sono un po' pochi, guardi. 45, va. Ci vuole, dipende anche dall'alimentazione, dallo stato di conservazione, dalla collosità della materia, non è facile. Comunque comunque sono stato abbastanza pratico e veloce. Nella notte è successa la stessa cosa. Cosa ho fatto? Mi sono alzato anch'io insieme a mia moglie. Mia moglie cambia la bimba, va al bagno e prende uno straccio, un asciugamano e lo mette sopra la luce alogena del bagno. Lascio immaginare che dopo circa 5 minuti una puzza invereconda all'interno della casa, ho detto cosa è successo, mi sono svegliato e stava prendendo fuoco l'asciugamano, quindi 3:30 di notte, d'inverno novembre, finestre aperte e da lì abbiamo rischiato di rimanerci, tutto qua. Diciamo che è stata una fantastica idea, ma esistono delle lucine schermate con gli animaletti che girano, che di solito regalano ai bambini, che non feriscono lo sguardo. Mettere l'asciugamano bagnato su una lampadina significa andarsela a cercare. Ma Alfredo? Sì, salve Nicoletti. Io ho una vecchia zia ultra ottantenne che da tempo mi chiedeva di aiutarla a prendere delle cose in un armadio, questi armadi antichi molto alti. Per prendere queste cose ci voleva uno scaletto, questi scaletti domestici. E sono andato a casa, ho preso lo scaletto che lei aveva e lei, come fanno le persone anziane che si prendono cura delle persone care, si è messa in baffa a mantenere lo scaletto. Ora tenga presente che io peso quasi 90 kg e lei ultra ottantenne. Insomma, lo scaletto era antico come la zia e come quindi la casa. Si è fracassato scaletto e zia, praticamente. Si è fracassato, il problema è che la peggio l'ha avuto lei, perché... Ma è sopravvissuta a questo incidente? È sopravvissuta, ma si è spaccato il labbro, insomma, alla fine abbiamo dovuto... Beh, è andata bene, perché un nipote di 90 kg che cade addosso a una signora di 85 anni potrebbe causarne lo schiacciamento radicale. È andata molto bene. È andata bene. Però la lezione qual è? Non usate lo scaletto con la zia che lo regge, ma almeno ho trovato una persona giovane che regga lo scaletto vecchio, uno scaletto giovane retto a una persona anziana. La lezione è attenzione alle scale vecchie sicuramente, però volevo far rilevare il fatto che quando le persone c'è un legame affettivo... fa male al cuore, puoi fargli il male, certo. Anche fa male al cuore, ma la persona anziana... si illude di poter a volte sostenere un peso magari troppo grande. È quello che diceva l'antropologo Maso Masotti nei confronti degli Umarell: si illudono di poter fare operazioni domestiche al di sopra delle loro possibilità. L'anziana zia, per affetto, si illudeva di poter reggere i 90 kg del nipote e ne è uscita malconcia, ma grazie a Dio viva. Enzo. Prego, buongiorno. Vede, anche lei certe cose lo dicono da quando uno è ragazzo che fanno male, invece lei ha insistito, e cosa è successo? Allora, è successo che praticamente usando in questo periodo un aggeggio che si chiama l'idropompa. L'idropompa è deleteria. È deleteria, però esiste poi il pericolo. Praticamente una prolunga... Anche senza idro sono sempre molto pericolose. Sì, sono pericolosissime. Io facevo la valutazione che... Ma lei con l'idropompa cosa ci faceva, no? Per capire, cosa serve? Stavo praticamente preparando i contenitori per preparare il vino. Ah. E in questo periodo è qualcosa che qui... Bacco e tabacco e venere, tutti i vizi. No, diciamo, lavava questi contenitori. Sì, lavavo questi contenitori. Alcuni episodi che ho sentito qua, i raccontini, fanno ridere, però realmente poi quando succedono, caspita, si non bastava una normale pompa non elettrica, un tubo dell'acqua? Da allora uso la normale pompa del rubinetto praticamente. Sì, ma non è che ci occorra tutta questa pressione per lavare una bottiglia. Allora, non c'è questa pressione, però mi accontento. Ci metterà allora, più tempo a raggiungere lo scopo, ma si salva la vita. Si salva la vita, perché io toccando inavvertitamente questa prolunga, mi sento proprio volare in aria. E ho avuto la fortuna di, non lo so se è stato un ragionamento, però evidentemente il cervello si fa i propri... Scusi, ma adesso le faccio una domanda banalissima. È meglio l'idropompa che la fa volare in aria o una normale pompa che ci mette più tempo però a raggiungere lo scopo? La normale pompa. Ho voluto dire la mia perché veramente io per 3 giorni sono stato... ho cambiato completamente un atteggiamento verso la vita, perché sono caduto in una chiazza d'acqua, però in aria ho avuto la forza di staccare i 2 fili. Comunque, diciamo, è stata una fortuna questa. Ci fermiamo su questo illuminante, catartico ma edificante episodio. Anche nel peggiore degli incidenti domestici, comunque c'è una morale, c'è qualcosa che dovrebbe capire, farci capire qual è la retta via, qual è la maniera migliore per conservare sano il nostro corpo e anche in questo caso la nostra anima. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.